gente che saluta solo con i guanti. Qua non si può tacere, deve andare avanti. Provare per vedere quante sono le menti che parlano la buonanotte di allineamenti. Buonasera e benvenuti alle buonanotte di allineamenti. Qui è come sempre il vostro Gas che vi parla e la settimana sta proseguendo. Speriamo che stia proseguendo bene per tutti voi. Noi l'abbiamo iniziata alla grande, l'abbiamo iniziata a ritmo di poesia, a ritmo di note e parlando di grandi poeti e scrittori del passato. Perché, e l'abbiamo fatto in compagnia di Carlo, ve lo ricordate? Perché oggi è tornato a trovarci. Io lascerei innanzitutto salutarvi. Buonanotte a tutti. Ciao Carlo. Ciao. E poi partirei da una domanda che mi è venuta ieri sera quando hai salutato tutti i radiospettatori, perché ci hai lasciato un po' con questa suspense. Oggi porterai Dante. Certo. Ma come ti è venuta questa idea di portare il sommo poeta? È una bella domanda. Dante. È stato lo spunto è sempre stato attraverso un concorso dove veniva proposta una sezione di musicali e poeti, che poi è stata quella che anche del pezzo della Spaziani, del brano della poesia di Mario Luisa Spaziani. È stata una bella sfida e alla quale ho sentito in maniera molto profonda, anche perché stiamo parlando del quinto canto dell'Inferno, dal verso 127 al verso 38, e stiamo parlando del dialogo nell'inferno tra Dante e Francesca. Insomma, Paolo e Francesca, credo che durante il periodo degli studi sia stato uno dei pochi momenti di prosa e di poesia che hanno colpito tutti noi sedicenni, diciassettenni, l'innamoramento, questo amore che va oltre l'esistenza terrena. Per cui, diciamo, un po' è stata questa la cosa che mi ha coinvolto principalmente. E poi perché analizzando le quattro terzine, poi le sentiremo nel brano, sono quattro componimenti musicali, diciamo, sono tre componimenti, momenti musicali completamente diversi. È stato molto bello, è stata una sfida compositiva. Perché? Proprio perché, a differenza delle altre volte, la fedeltà al testo era assolutamente doverosa. E l'intensità, ovvero il crescendo che ho sentito in queste frasi, in queste meravigliose parole di Dante, ha fatto sì che le stesure musicali sono state diverse e complesse, finché sono riuscito a trovare la soluzione con, diciamo, quasi tre componimenti completamente diversi, che crescono, e infatti poi lo sentiremo nel brano, c'è un crescendo, un'intensità, un'emozione che porta poi alla frase finale che trovo veramente meravigliosa. Questo brano e questo pezzo dell'Inferno è meraviglioso perché, diciamo, sembra quasi infrangere, sospendere le leggi dell'aldilà, perché questo amore, seppur un amore sulla terra contrastato, diciamo che quasi il dio dantesco permette che questo amore possa proseguire in eterno, e questo credo sia un quadro poetico veramente emozionante e veramente straordinario. Nella ricerca della fedeltà del testo, e per cui far scaturire una musica, anche qui l'emozione è stata proprio quella che la musica è scaturita senza lo strumento. Poi ci sono state varie versioni al piano, alla chitarra e invece poi anche nell'arrangiamento ci sono stati vari arrangiamenti, proprio perché si rischiava di trovare l'arrangiamento troppo classico su Dante, su come spesso capita, o così invece come a certi arrangiamenti che non avevano nulla a che vedere. Si è cercato anche qui di trovare il più possibile una semplicità di esposizione. Possiamo sentirlo e mi auguro vi piace, vi emozioni. Andiamo, grazie. No. mangiavamo un giorno per diletto, mi lanci il lotto come amor lo strinse, soli eravamo e senza alcun sospetto. Per più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura, e scolorò oggi il viso, ma solo un punto fu quello che ci vinse, quando leggemmo il disiato riso, esser basciato da cotanto amante. Questi che mai da me non fia diviso, la bocca mi basciò tutto tremante. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse, mi basciò tutto tremante. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse. Quel giorno più non vide Gemmo Avante, quel giorno più non vide Gemmo Avante. Gemmo Avante. Eccoci qua, ben ritrovati, bentornati. Allora Carlo, ma come ti è, a parte come ti è venuto in mente di nuovo a musicare Dante, quanto è stato difficile, ma la cosa che vorrei chiederti e che secondo me si stanno chiedendo anche i nostri ascoltatori è: ma adesso che ti abbiamo scoperto, dove ti ritroviamo? Quando ti possiamo rincontrare e dove ti possiamo ascoltare? Ecco, allora, diciamo che il progetto comincia a avere anche delle espressioni da live. È un progetto col quale io ho pensato di partire, qualche iniziativa è stata fatta, diciamo, chitarra e voce o pianoforte e voce, io mi accompagno chitarra e voce e qualche volta anche con l'armonica bocca, e altre volte invece si sta sviluppando con un pianista e con un percussionista, proprio per cercare, e questo dipende anche dalle situazioni e dalle contingenze. Un appuntamento importante sarà tra gli altri quello di novembre a Book City a Milano, in quanto l'evento Poetry Music è stato inserito nel programma di Book City Milano 2019. E qui, diciamo, il titolo vorrei citarvelo perché è quello che io ho usato e mi sono ispirato a Goethe. Infatti dice: si dovrebbe almeno ogni giorno ascoltare qualche canzone, leggere una bella poesia, vedere un bel quadro e, se possibile, dire qualche parola ragionevole. Ecco, io diciamo l'ho usato come spunto, anche perché credo che sia importante per la vita di ognuno di noi. Io cerco di farlo nella mia. E la descrizione dell'evento è sempre quella: rielaborazione in musica in canzone di testi poetici. E come dicevo, ho fatto un percorso nella ricerca di testi poetici di particolare intensità, proprio perché, come abbiamo detto ieri sera, spesso si conoscono i classici, e questo è assolutamente giusto ed è importante, però magari anche dei classici si conoscono solo dei testi, e invece anche dei classici ho cercato di andare a trovare dei testi molto particolari, e soprattutto poi quelli che personalmente mi hanno più emozionato, cercando di dare voce. La poesia rinasce ogni volta che la si rilegge, e quindi ho cercato di farla rinascere con la mia musica, A Book City ci sarà una serata dove appunto verranno presentate parecchie delle composizioni che ho fatto. Come dicevo, un altro, ho lavorato su Shakespeare, Tre sonetti d'amore, ho rielaborato due poesie che ho sempre amato molto e trovo molto emozionanti di Ungaretti, Memoria e Veglia, così come sono andato a cercare un altro componimento di Mario Luisa Spaziani, Sono venuto a Parigi per dimenticarti, piuttosto che Alla sera di Foscolo. Alla sera di Foscolo è stato un altro tentativo di rientrare su una grande poesia, una poesia classica, cercando però, e credo di esserci riuscito, a dare un'impronta musicale, ecco, veramente un differente linguaggio, una differente forma di comunicazione, che è un po' l'obiettivo che mi pongo in questo mio progetto. Va bene Carlo, io ti ringrazio di essere stato qui con noi, di aver condiviso con noi la tua arte. Grazie a voi. E magari ci rivedremo assolutamente anche sia in radio sia magari a Como. Noi a ottobre organizziamo un evento che proprio invita tutte le persone del territorio e comunque degli appassionati, degli interessati a condividere la propria arte al Museo Giovio, al Museo Civico Archeologico di Como, Side Festival, dove naturalmente non vediamo l'ora di riaverti. Grazie. Allora, per anche questa serata abbiamo concluso, vi mandiamo a dormire qui con qualche minuto d'anticipo e vi lasciamo alla vostra settimana. Fate dei buoni sogni, ci risentiamo domani sera qui con me in compagnia di qualche poeta strampalato comasco. Ciao a tutti e buona serata. Saluta solo con i guanti, qua non si può tacere, deve andare avanti, provare per vedere quante sono le menti che parlano la buonanotte di allineamenti.